Buongiorno cari ascoltatori di Rock FM, Maurizio Faulisi al microfono a presentarvi le sue pillole quotidiane, quelle che profumano di rock and roll, di country e di roots music in generale. Quest'oggi musica anni 50, registrata negli anni 50, esattamente nel 1959, e con un piedino soltanto entro nel campo di Fabio Treves, l'amicone e il Puma di Lambrate, perché quello che voglio proporvi è del sano blues, ma potrebbe essere anche del sano country, perché tutto quello che è stato registrato negli anni 50 profuma in qualche maniera, più o meno, di rock and roll, come nel caso di questo bellissimo blues intitolato Fannie Mae e Buster Brown. Buster Brown, Fannie Mae, un classico del blues, del rock and roll anni 50, tant'è che è finito anche nella colonna sonora del film American Graffiti. Mi sembrava doveroso ascoltarlo e riproporvelo, e così come è doveroso ascoltare lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, se volete farvi un po' di cultura musicale legata soprattutto al passato ma anche al buon suono del presente, le trasmissioni Good Rockin' Tonight e Country Skyline con Maurizio Faulisi. See you later, alligator!